perfetto giorno. Una buona giornata da Laura Bettini in questa occasione oggi con voi. Alessio torna presto, comunque non si preoccupino gli ascoltatori. Valgono come sempre i numeri per contattarci: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi ovviamente Facebook Effetto Giorno. Questi sono i principali ovviamente sistemi per mettersi in collegamento con noi in una giornata dove, come è noto, la notizia principale è quella del treno ad alta velocità che è deragliato a Lodi alle prime luci di questa giornata, attorno alle 5:30 del mattino. Ci sono due macchinisti che hanno perso la vita, 31 feriti. Sappiamo che nel punto dell'incidente era appena stato sostituito un deviatoio. Le altre notizie di giornata, ovviamente il coronavirus, 35 italiani bloccati su una nave che è in quarantena a largo del Giappone, messo a punto un test ad Hong Kong che in 40 minuti rivela l'eventuale contagio. Il presidente Mattarella è stato in visita in una scuola multietnica di Roma. E poi il coronavirus che preoccupa anche la BCE, non conosciamo gli impatti sulla economia, ha detto la presidente della BCE Lagarde. Chiuso il caso impeachment, Trump è stato assolto, ha tenuto la maggioranza dei senatori repubblicani con l'eccezione di Mitt Romney. Infine parleremo anche di Sanremo, perché è stata una seconda serata da record, 9,7 milioni di spettatori, 53,3% di share, la media più alta dal 95, e Gabbani domina la classifica dopo l'esibizione di tutti i big. In apertura, come dicevamo, però andiamo subito nella provincia di Lodi. C'è stato questo incidente sulla linea ad alta velocità nei pressi della stazione di Livraga, e proprio lì c'è in collegamento la nostra inviata Maria Luisa Pezzali. Buongiorno. Buongiorno Laura, di nuovo buongiorno agli ascoltatori. Attorno a te cosa sta succedendo? Allora, io mi trovo a Ospedaletto Lodigiano, a pochi metri dal punto in cui il treno ha finito la sua corsa. Le immagini che ho scattato sono sul sito di Radio 24. Davanti a me la motrice del treno da una parte, dall'altra gli altri vagoni, con la prima carrozza ribaltata, le altre più o meno in piedi. Dunque, così da quello che vedi e da quello che è stato ricostruito nelle ultime ore, cosa sappiamo della dinamica? Allora, da quanto è stato possibile ricostruire finora, intorno alle 5:35 di questa mattina, in corrispondenza di uno scambio elettronico per cause ancora tutte da accertare, la motrice del Frecciarossa 19565 diretto a Salerno, era partito alle 5:10 da Milano Centrale, ha compiuto quello che in gergo tecnico si chiama uno sviamento. Il treno è deragliato, la matrice si è staccata, così prevede il meccanismo di sicurezza, così come il resto del treno, sfiorando una palazzina di servizio delle ferrovie e finendo la sua corsa circa 500 metri dopo il punto del deragliamento. In questo tratto rettilineo, siamo in mezzo alla campagna lodigiana, il treno stava viaggiando a circa 290 km orari, Laura. Dunque, abbiamo tra l'altro raccolto, grazie a te, la voce e la dichiarazione del prefetto di Lodi, la sentiamo insieme. È una disgrazia incredibile, voglio dire. Certo, le condizioni, diciamo, ci sono state delle condizioni, non voglio definirle favorevoli, però nella prima vettura c'era solo un passeggero, nella seconda ce n'erano due e nella terza ce n'era uno. Devo dire che questo, ritengo, insomma, come voi possiate immaginare, abbia favorito, insomma, che la tragedia non fosse ancora più grave. Il prefetto Cardona così appunto diceva sulle cause, Luisa. Sì, poteva essere una carneficina, infatti ha detto il prefetto, solo il fatto che si trattasse del primo treno del mattino ha evitato il peggio. Aggiorniamo tra l'altro il bilancio: 31 le vittime, 31 le persone ferite, 4 in codice giallo, le altre in codice verde, 2 le vittime, i due macchinisti di 51 e 59 anni, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, i loro corpi sono stati sbalzati a 500 metri di distanza dai vagoni. Sulle cause, mi chiedevi Laura, prima prematuro ipotizzarle a finire sotto i riflettori, però è un intervento di manutenzione effettuato nella notte sullo scambio, sul meccanismo di azionamento dello scambio, tecnicamente si chiama deviatoio, in corrispondenza del quale appunto, come dicevamo prima, la matrice si è staccata. Se questa manutenzione sia o meno direttamente collegata all'incidente è ovviamente ancora tutto da verificare, ma sentiamo proprio a questo proposito che cosa ci ha detto il governatore della Lombardia Fontana, che è giunto sul luogo del disastro. Se mettiamo in discussione anche l'efficienza della Freccia Rossa, credo che sarebbe preoccupante. Spero che si sia trattato di qualche errore. Bisognerà cercare di capire, ripeto, l'unico dubbio che c'è è capire se esiste un collegamento o meno fra i lavori che si stavano svolgendo e quello che è successo. I sopralluoghi sono tuttora in corso, l'area è completamente sotto sequestro, i rilievi tra l'altro è stato già preannunciato, proseguiranno tutto il giorno e anche la notte, verrà portata una cosiddetta torre faro per illuminare a giorno tutta l'area. Alle 16 nel pomeriggio in procura a Lodi verrà fatto il punto della situazione da parte degli inquirenti, l'inchiesta che è stata aperta procede per disastro colposo. Laura. Grazie, grazie Maria Luisa Pezzali, con la quale continueremo a collegarci ovviamente nelle prossime edizioni. Cordoglio alle famiglie delle due vittime, è arrivato dal Presidente della Repubblica Mattarella, che parla di due nuove vittime sul lavoro, si augura che si faccia presto chiarezza, e anche ovviamente dal Premier Conte, che parla di una tragedia su cui appunto è necessario sia fatta luce. Intanto i sindacati del settore trasporti, CGIL, CISL, UIL e Autonomi, hanno proclamato 2 ore di sciopero per domani dalle 12 in tutte le ferrovie nazionali e locali. Morire facendo il proprio lavoro, scrivono, è tanto più inaccettabile quando questi eventi si verificano in un sistema tra i più avanzati al mondo per la sicurezza. Cambiamo pagina a questo punto. Questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella è stato in visita a una scuola, la scuola di Donato all'Esquilino, una scuola tra le più multietniche di Roma, con un alto tasso di alunni cinesi. L'ha ovviamente fatto in relazione all'allarme coronavirus. Dice la preside, è stata una sorpresa, ha voluto incontrare i bambini, stringere loro la mano, una visita informale. Ma sul tema coronavirus tanto sta accadendo in queste ore in tutto il mondo. Rosanna Magnano, facciamo il punto insieme. Buongiorno, sono circa 28.300 i casi confermati, 565 i decessi e solo 26 per adesso i casi in Europa. Da Hong Kong arriva una buona notizia. La Hong Kong University of Science and Technology ha messo a punto un test che consente di effettuare la diagnosi di positività al coronavirus in soli 40 minuti e al momento si tratta del più veloce dispositivo di rilevamento per il virus a livello mondiale. Si è appreso poi che ci sono, come dicevi, 35 italiani, di cui 25 nell'equipaggio, sulla nave da crociera Diamond Princess in quarantena nella baia di Yokohama al largo del Giappone, ma nessuno degli italiani è contagiato, ha fatto sapere adesso la Farnesina. Sulla nave al momento sono 20 le persone risultate positive al coronavirus, ma i test stanno continuando sui 3.700 passeggeri. Sì. Prego. E continuano le restrizioni ai voli. Air France estende la sospensione verso la Cina fino al 15 marzo e si rincorrono le stime sugli impatti negativi dell'epidemia, soprattutto sul turismo. La paura del virus, spiega Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, rischia di costare al turismo italiano almeno 1,6 miliardi di euro e oltre 13 milioni di presenze. È tutto. Grazie Rosanna Magnano. Il coronavirus preoccupa anche la BCE, come dicevamo, l'economia della zona euro continua a crescere, ma le incertezze restano elevate, ha detto la presidente Lagarde al Parlamento europeo. I rischi legati alle tensioni Stati Uniti-Cina recedono, ma le informazioni dalla Cina e il coronavirus, ha detto, creano molta incertezza, preoccupazione sull'impatto sull'economia cinese e globale. Dobbiamo essere consapevoli e pazienti, al momento non abbiamo molti elementi per misurare le conseguenze, ha detto Lagarde. E poi c'è il caso Trump, assolto da ogni accusa, chiuso il caso impeachment. Il Senato ha respinto sia l'accusa di abuso di potere sia quella di ostruzione al Congresso. Sentiamo. Il processo di impeachment contro Donald Trump è ormai archiviato con la sua assoluzione da parte del Senato, ma le profonde polemiche e divisioni nel paese e nella politica americana continuano. Trump ha deciso di rivolgersi alla nazione con un discorso questa mattina per dichiarare vittoria contro la truffa dell'impeachment, ha twittato. L'opposizione democratica minaccia invece di rilanciare inchieste alla Camera con audizioni ad esempio dell'ex consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton e promette di fare dello scandalo dell'abuso di potere sulla vicenda dell'Ucraina oggetto di campagna elettorale nelle presidenziali del 2020. Trump è stato assolto da 2 voti che hanno rispecchiato gli schieramenti di partito, con una sola eccezione: il senatore repubblicano Mitt Romney, che ha votato con la minoranza democratica per condannare e rimuovere il presidente per abuso di potere. Il figlio di Trump, Don Jr., ha chiesto la sua espulsione dal partito. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Sempre dall'estero, bufera politica in Germania dopo l'elezione ieri del nuovo presidente del Land della Turingia, grazie ai voti dell'estrema destra dell'AfD. Sentiamo. Imperdonabile. Così la cancelliera Angela Merkel ha definito l'elezione del liberale Thomas Kemmerich a presidente della Turingia. Il risultato va revocato. È stato un brutto giorno per la democrazia, ha aggiunto la Merkel, visibilmente furibonda per una prima assoluta che ha scioccato non solo il Land, ma l'intero paese, guadagnandosi l'apertura di giornali e telegiornali. La CDU non può far parte di un governo che ha l'appoggio esterno della AfD. Questo ha infranto i valori e i principi del partito, ha incalzato la cancelliera. Il tabù è stato rotto ieri quando, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, il ministro presidente di uno stato regionale è stato eletto grazie ai voti dell'estrema destra. Come se non bastasse, alla vittoria del candidato del partito liberale FDP Kemmerich ha contribuito persino una parte dei voti della CDU, creando imbarazzo nel partito della Merkel. La vittoria di Kemmerich si è giocata su un solo voto di vantaggio, 45 contro i 44 del candidato della Linke, il governatore uscente Bodo Ramelow. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia, prescrizione, Zingaretti dice ok, anche a rinvio per salvare il governo, bisogna voltare pagina. Il tema giustizia sempre al centro delle tensioni politiche nella maggioranza. Il PD chiede a Conte di accelerare su una mediazione, ma sulla base del cosiddetto lodo Conte bis, il blocco definitivo della prescrizione solo in caso di condanna in appello. Si lavori a una soluzione, altrimenti meglio il rinvio di un anno, dice il segretario Zingaretti. Mentre il ministro della giustizia Bonafede smentisce trattative su un possibile rinvio e annuncia che entro 10 giorni porterà in Consiglio dei Ministri la riforma del processo penale e lì avverte, ciascuno si assumerà le sue responsabilità. Un messaggio diretto a Italia Viva, che punta a rinviare di un anno la riforma con un emendamento a firma Annibali al mille proroghe. Insomma, per ora è impasse, con toni sempre più alti a far crescere la tensione anche la manifestazione del 15 febbraio promossa da Di Maio contro il ripristino dei vitalizi e contro il tentativo di Renzi di bloccare la riforma Bonafede. Giudico questa iniziativa un errore, dice Zingaretti, invito Di Maio a guardare al futuro e a come questo governo può trovare una prospettiva politica. Chiedo un chiarimento a tutto il movimento. Decidete cosa volete fare, altrimenti nessun problema è risolvibile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è il caso ex Ilva. Mi auspico che ulteriori passi avanti nelle trattative ci possano essere già oggi, ossia prima dell'udienza in programma domani al Tribunale di Milano. Così Aditya Mittal, presidente e direttore finanziario di ArcelorMittal, durante la conference call sui conti del gruppo, che hanno visto il gruppo chiudere il 2019 tra l'altro con una perdita netta di 2,5 miliardi di dollari. C'è da ricordare poi che la Soyuz con Luca Parmitano è atterrata in Kazakistan, quindi si è conclusa la missione Beyond e sono rientrati con lui i colleghi della NASA, Christina Koch, che tra l'altro è rimasta a bordo ben 328 giorni, e il russo Alexander Svortsov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Sanremo, 9 milioni e 700 mila spettatori, 53,3% di share. C'è in collegamento con noi Marta Cagnola. Marta, che record quest'anno? Beh, noi... sì, che record, anche eccoti. Perché noi eravamo a parlare della seconda serata, come la serata quella del calo fisiologico. Sì. E invece è andata molto bene, soprattutto ci sono. Purtroppo vai e viene, purtroppo allora. Adesso ti sentiamo. Vai. E non abbiamo fortuna con questo collegamento, che cerchiamo di ripristinare. Magari adesso nel frattempo sentiamo se riusciamo a fare la viabilità e poi magari Marta. effetto giorno. I titoli della giornata: deraglia un treno ad alta velocità a Lodi, morti due macchinisti, 31 feriti. Nel punto dell'incidente era appena stato sostituito un deviatoio, e qui torniamo tra poco. Coronavirus: 35 italiani bloccati sulla nave al largo del Giappone, messo a punto un test che in 40 minuti rivela l'eventuale contagio. E il coronavirus preoccupa anche la BCE, non conosciamo gli impatti sull'economia, dice Lagarde. Chiuso il caso impeachment, Trump assolto, ha tenuto la maggioranza dei senatori repubblicani con l'eccezione di Mitt Romney. Migranti: sia l'aumento dei rimborsi per le strutture che li accolgono, Salvini li aveva tagliati, ora il Viminale concede un rialzo. Sanremo, seconda serata record, 9,7 milioni, 53,3% di share, la media più alta dal 1995. E qui proprio ci siamo... E qui proprio ci siamo interrotti poco fa con Marta Cagnola in collegamento da Sanremo. Marta, dicevamo. Eccoci qua, ci siamo recuperati al telefono perché evidentemente qui c'è anche il picco di concentrazione delle connessioni e quindi abbiamo una connessione un po' lenta. Allora, picco d'ascolto a sketch tra Amadeus e Fiorello alle 21.48. In termini di share invece la consegna del premio Città di Sanremo ai ricchi e poveri. La curiosità è che quest'anno c'è il record di ascolti al nord, dove si avvicina al 50%, e per il centro con la miglior media dal 95. Ieri sera la classifica delle prime due sere, in testa Francesco Gabbani, hanno votato solo le giurie demoscopiche, e quel voto peserà per il 25% nella gara finale, quindi è come se fossimo a metà del girone di andata. Questa sera ci sono i duetti con canzoni della storia del festival e voterà l'orchestra, quindi insomma potrà ancora cambiare tutto. Potrà cambiare ancora tutto, certo. Potrà cambiare ancora tutto. Marta, ti ringrazio molto, allora buon proseguimento alle prossime edizioni di GR24 e ora noi torniamo all'incidente ferroviario. Incidente ferroviario, come dicevamo, oggi in provincia di Lodi, per cercare così di ragionare un po' su quello che potrebbe essere accaduto. Abbiamo in collegamento con noi il professor Stefano Ricci della Università La Sapienza di Roma, ingegnere civile, ordinario di ingegneria ferroviaria, dottore di ricerca in ingegneria dei trasporti. Buongiorno. Buongiorno. Professore, allora intanto noi abbiamo visto, è il primo incidente che accade sull'alta velocità in Italia, ne abbiamo trovato uno con il pendolino, ma parliamo veramente di tanti anni fa, tutt'altra rete. Sì, sulla rete alta velocità credo sia il primo, sì. È il primo incidente, abbiamo visto un po' di ragionamenti su quello che potrebbe essere accaduto, ovviamente si parla di questi lavori, è un momento particolare quello dei lavori di manutenzione che vengono fatti la notte, già in precedenza era capitato di incidenti che poi si era scoperto derivassero da lavori di manutenzione fatti in precedenza. Beh, le lavori di manutenzione ovviamente sono necessari, anzi sono necessari, certo, proprio la sicurezza. Mm-hmm. Quindi il momento delicato dei lavori non è tanto il lavoro stesso, perché questi sono lavori che si fanno normalmente in sospensione d'esercizio, quindi fuori degli orari quando circolano i treni. Ci sono altre attività magari meno pesanti che si fanno anche durante la giornata, però è magari poi la chiusura, cioè quando si passa di nuovo all'esercizio, ma questo adesso è difficile capire se è questo il problema nel caso specifico, perché non potrebbe anche non entrarci nulla questo discorso, ma naturalmente quando si passa da uno stato del sistema che funziona in esercizio normale, quindi anche coperto da tutte le sicurezze tecnologiche che oggi sono disponibili, al momento dei lavori e viceversa, c'è sempre una transizione, però questo non è detto che c'entri nulla, non sono informato dei dettagli di questo e quindi non so assolutamente dirle. Certo. È vero che è un momento, quando c'è una transizione in un sistema che funziona in un modo e passa a funzionare in un altro, questo è un momento critico in tutti i sistemi, non solo in quello ferroviario. E certo, è un momento critico che indubbiamente su un treno che poi va a quella velocità deve essere ancora più, no, controllato, insomma sarà anche molto sofisticato, penso, da un punto di vista tecnologico, sarà tenuto sotto controllo in tutti i modi. Sì, sicuramente ci sono tutte le tecnologie supportano molto in questa attività anche di trasferimento delle funzioni tra chi svolge i lavori e chi poi prende in mano l'esercizio, però quindi non, la velocità non ha un effetto su quello, semmai la velocità può avere un effetto sulle conseguenze, ma questo può tranquillamente succedere su qualsiasi linea, anche a velocità molto ridotte ci può essere lo stesso problema di transizione da una fase di manutenzione a una fase di esercizio ordinario. Quindi se questo è stato il problema, perché io non so neanche se questo è il problema. Infatti, al momento è piuttosto difficile, diciamo, lei con quella sua competenza e con i dati di cui disponiamo non possiamo fare alcuna ipotesi, diciamo, specifica. No, non credo proprio. No. Io personalmente non sono stato sul posto e non ho nessuna informazione di dettaglio, ma credo che chiunque, anche chi adesso sarà stato incaricato o starà incaricato di svolgere gli accertamenti, c'è bisogno comunque di capire dei tempi, di vedere la situazione prima, dopo, insomma, non è una cosa che si fa così, a vista. Certo. Professore, grazie molte per aver rubato tempo alle sue lezioni, per essere in collegamento con noi, con Radio 24, professor Stefano Ricci, buona giornata. Buona giornata a voi, buon lavoro. Grazie. E allora, questo appunto il punto al momento. Sappiamo tra l'altro che a Lodi sta arrivando il ministro De Micheli, quindi insomma riusciremo a collegarci probabilmente con la nostra inviata non appena arriverà e ci saranno notizie da trasmettervi. A questo punto cambiamo decisamente argomento. Abbiamo la consueta analisi di Daniele Biacchessi. Questa settimana ci porta nella Repubblica di Irlanda, perché sabato 8 febbraio l'Irlanda va al voto ed è una tornata elettorale che sembra destinata a sconvolgere il panorama politico tradizionale del paese, perché secondo gli ultimi sondaggi in testa alle preferenze di voto c'è il partito nazionalista Sinn Féin. Sentiamolo. Tra due giorni gli irlandesi vanno alle elezioni nel tempo della Brexit. Ci si aspettano novità importanti se dovessimo attenerci alle ultime tendenze rilevate dai sondaggi. Secondo i principali analisti, le preferenze andrebbero all'ex braccio politico dell'IRA, Sinn Féin. Sarebbe davanti con il 25% dopo un balzo di 4 punti, seguito dal centrodestra di Fianna Fáil con il 23% e Fine Gael, l'altro partito centrista del premier in carica, Leo Varadkar, con soltanto il 20% in perdita di 3 punti. La possibile affermazione del Sinn Féin porta almeno due significati simbolici. Sul piano storico determinerebbe una sorta di rivincita rispetto agli orangisti protestanti dopo i lunghi anni della guerra civile armata. Sotto il profilo politico registrerebbe un netto spostamento a sinistra dello storico asse di maggioranza che guida il paese e costringerebbe gli altri due partiti a coalizzarsi. Sinn Féin è cresciuto in poco tempo grazie ad un programma che promette politiche espansive nella spesa pubblica, lotta alle disuguaglianze e alle multinazionali, età pensionabile a 65 anni, riunificazione dell'Irlanda tramite un referendum. La sua vittoria avrebbe forti riflessi interni e nei rapporti con l'Unione Europea. E questo quello che potrebbe accadere sabato in Irlanda. Torniamo in Italia per parlare di migranti. C'è infatti una circolare del Viminale che ha portato da 19 a 23 euro la quota di rimborso che chi accoglie può ricevere per ogni immigrato. Perché tutto questo? Perché con i decreti del periodo in cui Matteo Salvini era ministro dell'Interno, dai rimborsi che normalmente venivano dati di 35 euro a persona si era scesi decisamente attorno ai 19 euro. Cos'è successo? Che tutte le gare che sono state fatte con queste cifre sono andate sostanzialmente deserte e quindi i prefetti hanno lanciato l'allarme sul sistema di accoglienza. Appunto, non è che ci siano troppi migranti da accogliere, ma ci sono troppi pochi soldi per rimborsare chi si occupa di accogliere i migranti. Allora abbiamo deciso di affrontare la questione attuale con Don Luca Paley, che è direttore della Caritas di La Spezia. Intanto le do il benvenuto, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Perché adesso il Viminale ha diramato una circolare con la quale si consente di rialzare i rimborsi, di ritornare quindi a 2-3 euro in più, mi sembra di aver capito, giusto? Sì, questo che anch'io ho appreso dai giornali, rispetto anche in televisione. È vero che però insomma, questi 2-3 euro possono fare la differenza per voi? Cioè 19 era troppo poco, 21 già ci si ragiona? Sicuramente, anche perché dovendo tener conto di tutte quelle attività necessarie appunto per l'accoglienza, volendo dare all'accoglienza il giusto valore, quindi integrazione, comunque anche tanti servizi, qualcosa in più ci permetterebbe di farlo in maniera più dignitosa e di dare ancora più attenzione a chi di fatto questa attenzione ne ha bisogno, insomma. Dunque, la Caritas della Spezia ospita 250 ragazzi migranti in questo momento. In tutta la diocesi, sì. In tutta la diocesi. Con le cifre che erano concesse prima, diciamo, questo è il massimo che siete riusciti ad accogliere? Prima e quanti sono scesi, diciamo? Sì, eravamo circa sui 400, poi siamo scesi circa 150 ragazzi in relazione appunto alla riduzione del contributo che veniva dato per poter sostenere le strutture che avevo in affitto e di conseguenza con l'affitto non mi era più possibile pagarle, quindi ho dovuto ridurre l'accoglienza nei termini che fossero per me sostenibili, tenuto conto di tutti i costi che questa porta con sé, il personale ovviamente che è un tasto molto delicato e tutte quelle realtà di mediazione, integrazione, psicologia che il nuovo bando non prevederebbe ma che io ho comunque mantenuto in essere perché per Caritas accogliere le persone ha un suo valore, ecco, altrimenti diremo soltanto delle belle parole ma non sarebbero i fatti. Ma quindi no, il nuovo bando non vi consentiva di avere per esempio appunto un mediatore culturale? Non era richiesto? Esatto, non era più richiesto, come anche era ridotto il tempo dell'operatore di struttura, non è più obbligatorio H24 ma a ore prestabilite, però capisce bene che con una struttura di 50 persone se non avessi l'operatore tutto il tempo necessario non sarebbe un'accoglienza dignitosa, perché non si possono lasciare i ragazzi a se stessi, insomma è necessario camminare con loro, per come almeno noi intendiamo come chiesa l'accoglienza delle persone, insomma, ecco. Quindi vitto e alloggio era consentito in sostanza. Vitto e alloggio, esatto, e soprattutto una cosa che secondo me è significativa, che mancava il contributo per l'etnopsicologia, che più che mai in questo momento, specialmente per chi è tanto tempo che è in struttura, è necessaria, perché è necessario elaborare questo tempo che sta passando e aiutare loro a capire cosa sta succedendo, oltre che aiutarli ad integrarsi, qualche volta trovare qualche borsa lavoro, qualche opportunità di lavoro anche nei campi, per esempio alle 5 Terre con un rete a secco, tutte attività che ci sono i soldi si possono fare. Senza di quelli, certo, c'è la carità, c'è la provvidenza, però insomma, aiutati che senza aiuta, si dice, ecco, quindi, come dire, è necessario garantire anche quella copertura di giustizia anche per gli stipendi delle persone, che ho dovuto evidentemente ridurre nel numero, perché dipendenti non potevo più avere il numero che avevo prima, in quanto con meno denaro. Perdite di lavoro anche nostro campo, diciamo così. Diverse unità di ragazzi, di persone che erano impegnate. Sì. Don Luca, la ringrazio molto. Buon proseguimento. Grazie allora. Grazie a voi. Grazie. Buone cose a voi. Noi adesso abbiamo la pausa per le borse. Effetto giorno. Ancora una buona giornata da Laura Bettini per Effetto Giorno. Allora, sono arrivati alcuni messaggi che si domandano molte cose sull'intervista che abbiamo fatto poco fa con la Caritas. Le spese per il personale, beh sì, certo, ci sono spese per il personale, non sono tutti volontari alla Caritas, non sono tutti Don Luca che presta un servizio volontario, quindi ci sono mediatori culturali, ci sono operatori, ci saranno anche coloro che puliscono o che cucinano. Ovviamente ci sono delle spese come in tutte le cose, ma vediamo un po' insieme intanto i titoli della giornata. Ricordiamo, purtroppo è deragliato questo treno ad alta velocità a Lodi, ci sono 2 morti, i macchinisti, 31 feriti. Nel punto dell'incidente era appena stato sostituito un deviatoio e quindi qui si concentrano al momento le indagini. Coronavirus, 35 italiani sono sulla nave che è stata bloccata al largo del Giappone. Nel frattempo a Hong Kong è stato messo a punto un test che in 40 minuti rivela l'eventuale contagio. Il coronavirus preoccupa la BCE. Non conosciamo gli impatti sulla economia, dice la presidente Lagarde. Chiuso il caso di impeachment, Trump assolto, ha tenuto la maggioranza dei senatori repubblicani con l'eccezione di Mitt Romney. E poi editoria, no agli sconti sui libri, approvata in via definitiva la legge che vuole sostenere i piccoli rivenditori, vietati i ribassi superiori al 5%. Ed è il momento di sentire qual è la riflessione sulla giornata del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Oggi si apre in modo solenne, come è nelle liturgie della politica, il tavolo per la riforma del fisco. Farebbe tremare le vene ai polsi di ogni politico affrontare la giungla dell'IRPEF, la babele dell'IVA e le complicazioni delle procedure proprie di un sistema fiscale rivisto a fine anni Ottanta e poi aggiustato a seconda delle esigenze di questo o quell'elettorato. A maggior ragione deve far tremare le vene ai polsi di Conte e Gualtieri alle prese con una maggioranza rissosa ed eterogenea. Ecco le cifre che danno le coordinate di questa giungla. 141 eccezioni per l'IRPEF, 70 per la sola IVA, 58 per l'IRES, che è la tassa delle imprese, 71 per le imposte di bollo. Ancora, ci sono 48 forme di deduzioni, 45 di detrazioni, le esenzioni sono 121 e le esclusioni 112. Ognuna di queste ha soddisfatto di volta in volta una lobby, un gruppo sociale, un interesse costituito. Insomma, finora si è creato un sistema fiscale per sottrazioni successive. Forse bisogna partire da qui per rifare tutto, anche perché l'evasione, come è noto, è di 108 miliardi e l'IVA continua a essere l'imposta meno pagata. E gli onesti sentono una pressione fiscale che si avvicina al 60%, anche perché, è bene ricordarlo, pagano anche per i mariuoli. E così Alberto Orioli oggi appunto nel suo punto. Ci ricolleghiamo con Maria Luisa Pezzali, inviata di Radio 24, là dove è successo questa mattina questo incidente ferroviario di cui abbiamo parlato per tutta la giornata nel corso dei nostri giornali radio e continueremo ovviamente a parlarne, a seguire la situazione. Maria Luisa, buongiorno. Buon pomeriggio Laura. La ministra è arrivata nel frattempo o il ministro, qui mi rimproverano se dico l'uno o se dico l'altro, quindi vabbè. Aspettando la ministra dei trasporti, Paola De Micheli non è ancora arrivata, ci dicono ci vogliono pochi minuti, però ovviamente una precisione assoluta non è possibile. Mi trovo nello stesso punto dal quale ho fatto il collegamento in apertura di Effetto Giorno, sono appunto a pochi metri dal luogo in cui il treno ha tragicamente bloccato la sua corsa. Immagini tra l'altro che trovate sul sito di Radio 24, da una parte la motrice che si è staccata, dall'altra il resto del treno con la prima delle carrozze ribaltate, le altre più o meno sono rimaste in piedi, sono uscite dalla loro sede. Sentivamo anche nel collegamento di poco fa il fatto che sia stata insomma una tragedia evitata, nel senso che potevano essere molto di più le vittime se non si fosse trattato del treno del mattino che era un poco affollato. Eh sì, Laura. 28 passeggeri, no? Soltanto, quindi... Esatto, i feriti non destano particolari preoccupazioni, 4 codici giallo, gli altri sono codici verdi, ricordiamo le due vittime purtroppo, i due macchinisti di 51 e 59 anni. Grazie Maria Luisa, buon proseguimento, buon lavoro e appunto ai prossimi collegamenti. Noi proseguiamo nella nostra puntata di Effetto Giorno con il tema editoria di cui vi ho accennato poco fa nei titoli, ma adesso ci torniamo con più profondità perché è stata approvata in via definitiva al Senato la normativa per la promozione del libro licenziata dalla Camera nel luglio scorso. Cambia la politica dei ribassi, questo nelle intenzioni del legislatore per sostenere i piccoli rivenditori. Non piace però precisamente a tutti questa legge, allora vogliamo parlarne con Carlo Gallucci, editore di Gallucci Editore, vicepresidente però anche del gruppo di Varia, dell'Associazione Italiana Editori, cioè AIE, membro del comitato di presidenza dell'AIE. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la cosa che colpisce di più è questo no agli sconti. Prima si poteva arrivare a uno sconto fino al 15%, adesso l'idea di non andare oltre il 5% di sconto, questo per, diciamo, sostenere i piccoli rivenditori nei confronti dei grandi rivenditori e soprattutto dell'online. Ci sono poi tutta una serie di altre iniziative e prescrizioni in questa norma, ma fermandoci a questo specifico passaggio dello sconto, qual è la vostra impressione sulla questione? Ma la preoccupazione dell'AIE, che è l'associazione che raccoglie la stragrande maggioranza degli editori, più del 90% del fatturato dell'editoria aderente all'AIE, che ha 150 anni, quindi una certa esperienza, dicevo, la preoccupazione è che questa norma possa essere deprimente, depressiva per il mercato. Il problema in Italia è che si legge poco, ce lo diciamo continuamente, soprattutto non si legge al sud e ci sono tante fasce della popolazione che non hanno modo di leggere, certo anche perché non ci sono librerie in tanti paesi. Allora, una norma che in qualche modo, riducendo lo sconto, aumenta l'esborso per i lettori, pensiamo che possa avere un effetto, diciamo, di scoraggiamento, no? Che possa scoraggiare la vendita, l'acquisto. Quindi dei scoraggiare tout court completamente, cioè, quindi non favorire i piccoli rivenditori, ma in realtà scoraggiare i lettori, quindi gli acquirenti. Sì, se diminuisce il numero dei lettori, se diminuisce il numero di copie acquistate, comunque il danno è per tutti. La legge è stata definita anche dal vostro giornale una legge anti-Amazon. Amazon fa uno sconto del 15%, è vero, ma riducendo lo sconto siamo così sicuri che diminuisca la sua competitività? Noi pensiamo che molto dipenda anche dal servizio, che quindi sia importante non tanto diminuire lo sconto, perché appunto questo aumenta solo i margini anche per i grandi competitor dell'online, ma che sia importante sostenere la domanda, quindi sostenere l'acquisto del libro, per esempio ridando all'app 18 il budget, il finanziamento che aveva all'origine, è passato da 290 a 160 milioni, quasi dimezzato quindi. E un'altra forma di sostegno alla domanda, quindi ai lettori, è quella di poter scaricare fiscalmente l'acquisto dei libri, come avviene per altri consumi. Senta, lei mi è già arrivato alla questione che le avrei chiesto, quella dello sgravio fiscale, quindi la ringrazio molto, Carlo Gallucci. Quindi una legge che per far bene potrebbe fare addirittura male, questo almeno è la riflessione dell'Associazione Italiana Editori. Buon proseguimento, buona giornata. Carlo Genta ci ha raggiunto in studio, come di consueto questo è il momento dello sport. Che cosa ci riserva? Tutti convocati oggi partiremo da un'intervista che Ivan Zazzaroni, che sarà il nostro ospite, ha fatto a Mario Balotelli, ma a tutto campo. Sarà interessante capire come l'ha trovato, così come sarà interessante esaminare il passo falso, mezzo passo falso della Lazio ieri col Verona. 0-0 in casa, mancato sorpasso all'Inter che si avvicina al derby con il Milan. Con problemi di formazione, Handanovic ancora non a posto, non si sa se giocherà, eccetera, eccetera. Però è chiaro una partita chiave questa, che fa, insomma, a Milano c'è molta attesa, come sai, basta uscire di qui per capirlo. C'è poi stato Valentino Rossi che ha detto, ma se non vado forte l'anno prossimo mi ritiro, però sono cose che aveva già detto la presentazione della Yamaha, ultima volta per lui da pilota ufficiale. Infatti non è tanto lui che forse si ritira, ma sono gli altri che in qualche misura forse hanno meno fiducia. Una moto gliela daranno, non nel team ufficiale, ma nel team Petronas c'è poca differenza, quasi soltanto formale, però la forma diventa sostanza quando si tratta di Valentino Rossi. E poi c'è, insomma, Djokovic e la sua performance a Sanremo, c'è Stefano Melocaro che mi ha mandato una foto, era in campo su un campo NBA a giocare, sono curioso di chiedergli perché, all'arena dei Brooklyn Nets. Sarà nostro ospite più tardi da New York. Insomma, ci divertiamo così oggi e ne avrete tra poco, abbastanza. A partire dalle 14. Grazie Carlo Genta, viabilità.